Salva Danaio. Buona giornata da Valentina Forlanetto, benvenuti a questo appuntamento di Salva Danaio versione short, perché questa settimana Salva Danaio va in onda dalle 12 alle 12.30, quindi affrettatevi a chiamare se avete delle domande, dei quesiti da porre ai nostri ospiti. Il numero è come sempre l'800240024, oppure se volete mandare un sms 349-238-6666. Chiamate quindi subito, perché entriamo subito nel tema del programma, che è quello del bonus assunzioni per i giovani. Allora, ieri 1 ottobre è scattato questo click day che ha permesso alle 15 ai datori di lavoro di inviare tramite il sito dell'INPS le domande per accedere agli incentivi introdotti dal decreto lavoro per l'assunzione di giovani. Il bonus previsto ha un tetto massimo di 650 euro mensili per 18 mensilità e poteva accedervi chi ha tra i 18 e i 29 anni in presenza di precisi requisiti. Salva Danaio oggi quindi fa il punto sull'andamento dell'operazione rispondendo a tutte le vostre domande con l'aiuto di alcuni esperti. Siete interessati a questo bonus? Avete partecipato ieri al Click Day? Siete in possesso dei requisiti? Potrete farlo magari in futuro? Ne parliamo con Alessandro Rota Porta, consulente del lavoro ed esperto del Sole 24 Ore. Buongiorno. Buongiorno a tutti, grazie dell'invito. Grazie, benvenuto. E benvenuto anche Antonello Crudo, direttore generale dell'Entrata dell'INPS. Buongiorno, benvenuto. Sì, buongiorno, grazie dell'invito. Grazie a voi per essere qui e ci aiuterete ovviamente a parlare di tutto questo con gli ascoltatori. Alcuni di loro in qualità titolari di aziende probabilmente ieri alle 15 si sono messi lì davanti al loro computer per tentare di accedere a questo bonus, insomma, interessante per i giovani. In realtà le aspettative erano così, un po' traballanti, vista anche le turbulenze politiche, vista la situazione di crisi nella quale versa l'economia. Luigi Angeletti, leader della UIL, aveva detto: mi aspetto che sarà un flop. Aveva parlato anche Enrico Giovannini, ministro del lavoro, aveva detto: l'instabilità politica potrebbe portare alcune imprese a non usufruire degli incentivi. Oggi invece Giovannini ha detto: beh, per fortuna non è andata così male. Ma lo chiediamo proprio a lei, Antonello Crudo, direttore generale delle entrate dell'INPS. Com'è andata innanzitutto? Quante sono state le domande che vi sono arrivate? Ma questa mattina avevamo circa 5.500 domande. Adesso ovviamente è un dato molto fluido, perché poi diciamo ora per ora si va ad aggiornare, insomma, da ultimi dati, anche se non proprio ufficiali, siamo già oltre le 6.000. Diciamo che in questa fase adesso si sta un po' stabilizzando l'afflusso di domande e non ha più, diciamo, la densità di ieri, dove abbiamo avuto, ad esempio, 469 domande nel primo minuto e poi siamo andati per circa 3 ore al ritmo di una domanda al secondo, più o meno. Ma quando si parlava delle aspettative, no? Per queste domande, i 5.500 domande pervenute, lei diceva appunto adesso andranno scemando. Sono in linea, stanno aumentando, però sicuramente con un ritmo di crescita più, meno rispetto alle prime ore. Meno presumiamo. Così repentino delle prime ore, anche perché ovviamente c'è anche un criterio di chi sì. Primo arrivava, primo era così considerato, il requisito era anche quello, no? della velocità con la quale ci si prenotava. Ecco, il numero di domande pervenute sono in linea con le aspettative? Ma sì, abbastanza. Un po' sotto, mi pare di capire. Che ci si poteva aspettare, insomma, anche perché comunque l'accesso al beneficio è da ieri, dal 7 agosto fino al 30 giugno 2015, quindi ci aspettiamo ulteriori domande. Ci sono ancora risorse, quindi credo anche in linea con quelle che sono state le risorse stanziate. Immagino che anche lo stanziamento sia stato fatto in base a delle previsioni di incentivazione, quindi essendoci ancora risorse e continuando ad affluire le domande, credo che a regime ipotizziamo che si possa arrivare, insomma, a quelle che sono le aspettative. Le aspettative che sono di quante domande? Scusi? Le aspettative di quante domande sono? Ma più o meno le risorse stanziate credo arrivino a coprire circa 20.000 domande fino a quando si può prenotarsi? Fino al 30 giugno 2015. Ok, però cioè le assunzioni fino al 30 giugno 2015 per mandare la prenotazione? La prenotazione diciamo è sempre aperta con un criterio che deve tener conto della norma, in quanto diciamo la prenotazione può essere mandata sempre, poi può essere, se non ci sono più risorse, viene respinta. La norma peraltro imporrebbe teoricamente di non prendere in considerazione ulteriori domande per le quali non ci sono in quel momento risorse. Noi, per evitare proprio un click day quotidiano e per ridurre un po' gli adempimenti da parte di aziende intermediari, abbiamo previsto che quella domanda, ancorché respinta in un primo momento, possa rimanere latente con una sorta di idoneità del soggetto per 30 giorni, qualora si rendano disponibili altre risorse, perché un'azienda che ha prenotato poi non utilizza realmente le risorse, oppure perché un rapporto di lavoro per il quale è previsto per 18 mesi e per il quale sono state prenotate risorse per 18 mesi si interrompe prima e quindi le libera, un'azienda può, la domanda inizialmente respinta, può di nuovo prendere diciamo, può avere di nuovo l'accesso al beneficio. Di fatto la possibilità di mandare domanda non si esaurisce mai, insomma, può essere respinta e noi, rispetto proprio al dettato letterale della norma, manteniamo questa latenza di 30 giorni proprio per semplificare e ridurre soprattutto gli adempimenti, altrimenti avremmo fondamentalmente avuto un click day quotidiano con grande con problemi per tutti, sia per chi fa la domanda sia per chi la riceve. Abbiamo già degli ascoltatori che sono in linea, però vorrei fare una domanda anche a Alessandro Rotaporta, consulente del lavoro ed esperto per il Sole 24 Ore, perché ho visto questa mattina già delle commenti abbastanza piccati da parte dell'Associazione dei Consulenti Nazionale dei Consulenti del Lavoro, la NCL, che ha così criticato un po' la giornata di ieri, questo click day. Come mai? Ma guardi, personalmente devo dire che questa volta il criterio è stato più ragionato rispetto ad altre procedure a cui eravamo abituati in passato, perché comunque sia si tratta di una prenotazione, quindi il datore di lavoro o l'intermediario che opera per lui a priori può sapere se quella determinata assunzione che si andrà a realizzare potrà dare accesso al beneficio. Ecco, adesso stiamo parlando, come ha sottolineato giustamente prima il dottor Crudo, stiamo parlando di un arco temporale che va dal 7 agosto fino alla giornata di ieri. Perché? Perché in quest'arco temporale già potevano essere realizzate assunzioni che facevano accedere all'agevolazione, quindi per questo che adesso c'è stato anche probabilmente questo grosso numero di attivazioni, perché si doveva andare a coprire le assunzioni già effettuate. Però questa procedura di prenotazione è valida anche nel momento in cui si va appunto a fare l'istanza, ma l'assunzione o la trasformazione a tempo indeterminato non è ancora stata realizzata, quindi questo secondo me è un aspetto positivo. Poi vabbè, lo sappiamo, questi click day qualche difficoltà purtroppo tutte le volte la portano. Quindi lei non si allinea con l'associazione che parla di matricole di aziende rifiutate, comunicazione di irregolarità nell'applicazione informatica, eccetera. Io devo essere schietto, io faccio anche parte dell'associazione, quindi correttamente lo devo dire, però logico che, cioè, voglio dire, non, personalmente non mi sento di assumere una posizione così critica, perché comunque sia cioè, lo sappiamo che comunque sono degli adeguamenti a quello che dispone una norma, quindi ovviamente l'INPS penso che abbia fatto quello che poteva fare. Logico che essendoci un periodo pregresso da andare a richiedere per quelle assunzioni effettuate appunto dal 7 agosto, è normale che un po' di intasamento ci sarà stato. Ma sì, questo del meccanismo del click day aveva creato qualche problema anche con la regolarizzazione delle badanti qualche tempo fa per la sostenibilità del sistema. Lì c'era stato però un numero molto alto di domande presentate nello stesso momento, quindi chiaramente in un paese che centellina col contagocce e la banda larga e i collegamenti veloci c'erano stati dei problemi. In questo questo caso anche il numero non così alto di domande presentate forse ha aiutato. Io darei subito la parola a un ascoltatore, perché appunto abbiamo poco tempo, come ci fa notare qualche ascoltatore via SMS. Massimo da Ascoli Piceno, buongiorno, benvenuto. Buongiorno, buongiorno a lei e buongiorno al suo ospite. Lei è un titolare di un'azienda? Allora, io attualmente gestisco un'azienda, una piccola azienda di 10 operai e facciamo imballaggi in legno. Sì. E volevo un attimo fare una piccola osservazione. E ha partecipato ieri, mi scusi, ha partecipato ieri a questo click day, a questo bonus per incentivi? No, personalmente sì. No. E volevo solo fare una piccola osservazione circa queste continue leggi che vengono fatte quasi da tutti i governi e circa gli incentivi per le assunzioni giovanili. La cosa che volevo dire è questa: il tessuto medio delle piccole e medie imprese in Italia mediamente è molto competente e sa come si fa l'impresa. E in realtà, se la mia azienda non ha lavoro, non ha nessun interesse ad assumere un giovane, anche se costa poco, anzi dirò di più, anche se costa zero. E quindi, secondo me, e penso che i dati lo dicano, sono delle iniziative, per quanto magari sulla carta buone, assolutamente sterili. Cioè il problema, lei dice, è un problema molto più grosso, più a monte, ed è quello della difficoltà per le aziende ad andare avanti, della produttività, se capisco bene. Beh, sicuramente questo è un problema che stringe le imprese, che le mette in difficoltà, però bonus di questo tipo dovrebbero dare un pochino fiato, insomma, a chi non è proprio in difficoltà, ma vorrebbe assumere, e magari questo può portarlo a farlo. Alessandro Rotaporta. Beh, qui andiamo ad affrontare un problema proprio di natura molto più ampia. Sono d'accordo anch'io con l'ascoltatore, questi sono, diciamo, degli interventi spot che non vanno a incidere in modo strutturale su quello che è il costo del lavoro, che sappiamo tutti che è un po' il grosso fardello che si portano sulle spalle le aziende italiane. Nello stesso tempo però cioè, le risposte a questi bonus, cioè all'accesso a questi bonus, hanno però sempre dimostrato che comunque sia, quando ci sono degli incentivi, le aziende rispondono. Ecco, non sarà magari il caso della generalità dei datori di lavoro, però la risposta c'è. Io, l'anno scorso in questo periodo sono stati stanziati 232 milioni di euro rivolti all'assunzione sempre di donne e giovani, e sono stati bruciati nel giro di una settimana. Quindi ha ragione l'ascoltatore, non sono interventi strutturali, e quindi magari alla maggior parte delle aziende, quelle in difficoltà, non servono, però la risposta c'è, quindi vuol dire che tutto sommato, anche se sono interventi così sporadici e non sono in un quadro organico, però comunque un aspetto positivo ce l'hanno, pur con le difficoltà magari procedurali e quant'altro, che per la carità ci saranno, però comunque funzionano. Ecco, poiché questo incentivo è uno stanziamento pluriennale, quindi è bene conoscere i requisiti per partecipare in futuro. Antonello Crudo, i requisiti per quanto riguarda i giovani devono essere quelli, si diceva, di età tra i 18 e i 30 anni, meno un giorno, quindi 29, essere senza lavoro, senza stipendio da più di 6 mesi, essere privi di diploma o di qualificazione professionale. Quello che mi chiedevo è, per chi invece ha un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, come viene considerato? Il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa è legato, può incidere sulla mancanza di lavoro regolarmente retribuito nei sei mesi precedenti, quindi può incidere sulla perdita di quel requisito, perché ovviamente il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa è una committenza, c'è un rapporto di lavoro, quindi può incidere su quel tipo di requisito rispetto alla possibilità di accedere dal portarsi dietro questa dote per l'accesso al beneficio. E con il click day, dicevamo, si attua una prenotazione da parte dei titolari di azienda. Ci sono quanti giorni per sapere quali richieste vengono accettate e quindi chi deve ritentare? Ma guardi, la norma prevede che noi entro 3 giorni dovremmo dare risposta sul fatto che la domanda, almeno in fase di prenotazione, è stata accettata. In realtà noi lo stiamo praticamente facendo in real time, già adesso, proprio lo facciamo ogni giorno, già adesso, fino a qualche minuto fa, abbiamo già mandato 800 risposte, e chiaramente le stiamo, rispetto alle 5.500 domande di ieri, e le stiamo praticamente, quindi quasi in tempo reale, il giorno dopo diamo la risposta sull'ok per quanto riguarda la prenotazione, momento importante perché in base al comma 14 dell'articolo del DL 76 poi decorrono, diciamo, i 7 giorni perentori per stipulare il contratto, diciamo, per assumere effettivamente il lavoratore. Quindi in questo senso, proprio quello che diceva prima il dottor Rataporta, questo sistema con questa risposta immediata può dare un'immediata certezza all'azienda, cioè l'azienda sa che quando assume il lavoratore ha dietro questa dote, mentre in esperienze passate a volte c'era un momento di alea iniziale che sicuramente non faceva bene all'operazione. Quindi il tipo di processo che abbiamo disegnato ci permette di dare all'azienda che fa la prenotazione immediatamente di avere risposta e quindi di procedere poi agli adempimenti successivi per l'assunzione del lavoratore, con la certezza che questo lavoratore porta dietro la dote di 650 euro massimi mese prevista dalla norma. E questa è la cosa importante. Io ringrazio i nostri ospiti, gli ascoltatori, in redazione Marco Lombardo, Carmelo Lauricella in regia e Salva Danaio. Torna domani. A tutti buona giornata da Valentina Furlanetto. Salva Danaio. We'll be right back.